Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 8 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia Il riposo del guerriero con una puntata piuttosto complessa. Complessa per molte ragioni, perché si sono incastrati oggi così molti e curiosi dettagli della vita di questo programma, quindi devo andare un pochino con ordine per cercare di fare capire anche voi ascoltatori cosa sta succedendo. Innanzitutto siamo in diretta dal Salone del Libro di Torino. Il padiglione è facile da ricordare, il numero è 2, ma la lettera che contraddistingue lo stand è la J, siccome per la Juventus oggi è una giornata importante, l'è già stata, però insomma, oggi è quella, e quindi siamo al padiglione J166, venite a trovarci. Poi sicuramente bisogna fare un augurio a tutte le mamme, ce ne sono tante, alcune davanti a me in questo momento e fanno parte del pubblico, e alcune invece, anzi una in particolare, vedo che sta scrivendo in questo momento, è una delle nostre ospiti. Tra poco vi presenterò tutti gli ospiti, e quindi anche questo è un dettaglio in più di questa puntata. E poi parleremo anche di un libro che è nato da una delle puntate di qualche mese fa del Riposo del Guerriero. Però non voglio anticiparvi tutto, anche se l'argomento principe della puntata di oggi è la lingua italiana, la nostra lingua così bistrattata, chiacchierata, ormai deturpata probabilmente anche, forse una lingua che si sta un po' perdendo e forse no. Vediamo cosa possiamo fare e quanto questa lingua possa e può ancora influenzare il nostro modo di pensare e di vivere. Avremo tanti ospiti, anche voi siete coinvolti come sempre. Vi ricordo il numero per gli sms 349-238-6666, ma devo anche dire che anche oggi, anche se siamo in diretta dal Salone del Libro di Torino, giocheremo con il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, quindi ancora libri, visto che siamo in tema, libri sia cartacei sia digitali, e parleremo anche di questo oggi, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. Alle 11:30 quindi giocheremo, volete prenotarvi fin da adesso, e vi faccio ascoltare subito il primo indizio. La risposta, come sempre, può essere o un personaggio famoso, qualcosa di conosciuto, o una delle tante notizie della settimana. Il numero per prenotarvi da adesso 800 24 00 24. Potete seguirci anche sulla nostra pagina di Facebook, Il Riposo del Guerriero, e prima di dare fiato alle trombe, come diceva un famoso conduttore che ormai non c'è più, sentiamo gli Extreme, che con una bellissima canzone parlano di parole. Is all you have to do to make it real, then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was che racconta di come a volte i gesti sono più importanti delle parole, ma le parole hanno sicuramente un senso e molto spesso rafforzano anche i gesti. Allora, con me vado in ordine di vicinanza di sedia o di lontananza di sedia. Cominciamo dal fondo, Francesca Dragotto. Ciao Francesca, benvenuta. Buongiorno. La nostra glottologa, ormai dico nostra perché fa parte del Riposo del Guerriero, e vabbè, poi ci ritornerò su Francesca, perché il libro che è nato da una delle puntate del Riposo del Guerriero nasce anche dalla sua penna, anzi nasce dalla sua penna non soltanto, perché il libro raccoglie anche molti contributi, ma l'idea sicuramente è di Francesca. E di fianco a lei c'è Ugo Cardinale. Ciao Ugo, buongiorno. Ciao. Ugo è un linguista italiano e fa parte del Comitato delle Olimpiadi della Lingua, parleremo anche di questo, avremo anche alcuni dei vinti ragazzi che hanno vinto queste Olimpiadi, ha insegnato linguistica all'Università di Trieste, è preside del liceo Botta di Ivrea e molto altro. E insomma, con lui parleremo anche di questa lingua che stiamo perdendo o non stiamo perdendo, come si sta trasformando, chi meglio di lui che ha a che fare con gli studenti del liceo ci può fare un quadro di come sta andando. Poi c'è Lele Rozza, che saluto. Ciao Lele. Ciao, benvenuto, grazie. È direttore editoriale di Blonk, che è una casa editrice che ha deciso di pubblicare esclusivamente in formato digitale. per cui vedremo se anche il libro digitale sta cambiando la fruizione della lettura. Perché vabbè, il ragionamento è che il libro cartaceo lo conosciamo tutti e il libro digitale oggi e spesso è una trascrizione di quello che è nato cartaceo, invece poi nel futuro, forse già da oggi, ma in più andando avanti con il futuro, avremo a che fare con libri che nascono già in digitale, quindi come cambiano in questo senso i libri. E poi Michele Tosi, ciao Michele. Buongiorno. Ciao. Copywriter di grande fama, l'abbiamo già avuto ospite tante volte. E proprio grazie a una puntata dedicata al linguaggio della pubblicità, dove Michele era ospite e anche Francesca Tragotto, è nato questo libro, si intitola Divagazioni logologiche intorno alla pubblicità. E quindi insomma noi prendo un po' spunto anche dalle cose che Francesca ha raccolto in questo saggio, cercheremo di raccontare come la lingua italiana può anche far cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di comportarci, perché scopriremo che magari la nostra lingua italiana è particolarmente sessista. Francesca? Un argomento interessante che abbiamo trattato proprio un paio di giorni fa qui al Salone. La lingua italiana è sessista? La nostra società è sessista e il sessismo passa spesso attraverso la lingua, ma non per questo si può definire la lingua in sé sessista. Ci sono espressioni, locuzioni, ci sono degli elementi che fanno pensare al sessismo, ma molto spesso si tratta di elementi che la lingua ha fatto propri, ma partendo dall'extralinguistico, quindi partendo dalla realtà, dal concreto. Allora, ti faccio una domanda prima di dare la pubblicità, così diamo così un po' di pepe al pubblico che è qui presente, gli ascoltatori a casa. Le lingue che non fanno differenza di genere, ok? Sì. Fanno parte di società meno sessiste? Questa è un'equazione che facilmente si potrebbe pensare essere corretta, ma non è così, perché tra quelle senza genere ci sono, ne cito soltanto alcune. Sì. Innanzitutto sono più le lingue senza genere che quelle con il genere. Tra quelle senza genere ci sono il turco, il birmano e il giapponese, che però al proprio interno conosce una lingua metandrica, quindi una lingua che gli uomini possono parlare solo con gli uomini. E mi viene difficile immaginare che non ci sia del sessismo nell'ambito di una cultura che si serve di una lingua di cui una varietà è riservata esclusivamente agli uomini. Le donne non solo hanno un forte senso del tabù che le spinge a non utilizzare se non privatamente e quasi per una sorta di trasgressione questa varietà linguistica, ma penalmente vengono stigmatizzate, quindi vengono condannate se osano utilizzare questa varietà che non appartiene loro. Ecco, quindi insomma non diamo così tanta colpa alla lingua, no. Meno male. Tanto questo, meno al genere grammaticale. Ok, perfetto. Il riposo del guerriero. Cardinale, da preside hai a che fare con i liceali, appunto il liceo è un liceo classico e insomma, la diatriba è sempre il fatto che i ragazzi oggi leggono poco, che si conosce poco la lingua italiana, che i mezzi di informazione sono sempre più veloci e che c'è un impoverimento, forse anche del pensiero. Allora, innanzitutto c'è un impoverimento della conoscenza della lingua italiana? Ma guarda, su questo problema io sarei molto cauto, perché i giovani di oggi per certi aspetti sanno più di noi e per certi aspetti sanno meno di noi. Bisogna capire che si tratta di nativi digitali, che la loro mente è diversa dalla nostra, che la mente digitale è diversa dalla mente proposizionale, e quindi il compito della scuola è quello di lavorare molto sull'arricchimento del lessico attraverso l'uso del vocabolario, che sia scoperto come uno strumento di lettura, anche di piacere, giocare anche col vocabolario, perché il problema dei ragazzi è proprio questo: conoscono poche parole e molto spesso hanno delle incertezze quando si tratta di stabilire il rapporto tra la parola e il significato appropriato. Per esempio, vedendo un po' i risultati di queste Olimpiadi, che cosa posso dire? Posso dire che certamente i ragazzi hanno una grande sensibilità e anche padroneggiano la sintassi, e sono ragazzi che si vede che amano scrivere, però a volte confondono i significati delle parole. Per esempio, non so, afflato non è estro e non è ispirazione, è suono dolce e variegato, non so, surrettizio, non è ingannevole, ma è il supporto ad un'azione. Esiziale non è dannoso, non è funesto, ma è relativo ad un risultato, cioè ad un esito. Non so, insipiente, per esempio, non è ignorante, ma insipido e senza gusto. È paludato, non è solenne, non è ampolloso, ma è una persona indiziata di appartenere a qualche giro losco. Ecco, Ugo, ecco. Ma la colpa non so, dei pubblicitari, per esempio, che usano poche parole per fare ridere, Michele, colpa tua. No, la parte ignorante della pubblicità. T'ho invitato apposta. Grazie. Michele Tosi. Ma allora, io credo che il problema della pubblicità sia avere solo 30 secondi. Delle parole che Ugo Cardinali ha citato. Conosci, conosco tutte perfettamente. Ci credo. Tanto non si vede il naso che cresce in radio, per cui è benissimo così. Ma poi Michele le sa adesso, a parte tutto, adesso ti prendo un po' in giro. Preso nota. Scusa. No, nel senso che sicuramente la pubblicità, come sempre, avendo poco tempo, poco spazio, poche battute, cerca di usare delle parole che siano immediatamente comprensibili. Per cui, a meno che abbia delle necessità di parlare a un target molto più evoluto, l'uso è molto basico, stiamo usando 800 vocaboli di più, credo, come si fa. Ecco, volevo chiederti questo, Michele, la pubblicità chiaramente è un linguaggio e fa parte della nostra vita quotidiana, perché la ascoltiamo con la radio, la ascoltiamo guardando la televisione e la leggiamo sui giornali, no? Certo. La pubblicità, soprattutto quella scritta, anzi solo quella scritta, è fatta di due grandi parti. Una parte si chiama headline, che è il titolo della pubblicità, e una parte si chiama body copy, che è la parte, diciamo, quella più scritta, più descrittiva. Si può fare qualcosa nel body copy? Cioè, si può fare qualcosa per arricchire un po', oppure anche lì bisogna essere il più piani possibile? No, allora, il problema è che questi testi pubblicitari passano per parecchie mani. Nel senso che abbiamo delle necessità di comunicazione, quindi può partire da un copywriter che mette uno spunto creativo, una parte estetica, carina, di stile, per poi purtroppo fare i conti con il marketing, fare i conti con lo spazio, fare i conti con tante necessità che stringono o inseriscono numeri di telefono, indirizzi, aggettivi che il cliente vuole. E purtroppo questa cosa, il passamano, cioè come se un autore scrivesse un libro e poi questo viene poi, succede probabilmente dall'editore o da tutta una serie di passaggi. Quindi tutto si semplifica. Tutto si semplifica perché c'è il terrore che non venga compreso. Capito. Siccome la costa, deve essere compresa da tutti, questo abbassa molto il livello. Ecco, Cardinale, e quindi questo continuare ad abbassare è quello che può avere influenzato la generazione della pubblicità, chiamiamola così? Ma io non credo, perché io trovo la pubblicità di oggi una pubblicità intelligente, ben costruita, e gente che sa come funziona la comunicazione. Ma mi ricordo, per esempio, essendo io un anziano, mi ricordo, non so, del lancio, mi pare dal 500, quando Forattini disse che era viaggiosa. In effetti usava un suffisso tipico della lingua italiana, cioè come oso, sì, peloso, con molti peli, viaggiosa, che viaggia molto. Ecco, ma venendo ad oggi, trovo che la pubblicità sia concepita, come dire, con molta intelligenza e certamente come messaggio di comunicazione immediata funziona. D'altra parte c'è questa tendenza nella lingua italiana all'accorciamento. Spero che non si arrivi al monosillabismo. Non so, per questo è il rischio, infatti. Francesca, tu che hai scritto il saggio, alla fine a cosa hai dedotto? A cosa sei arrivata? Arriveremo alla UG? No. No, perché nella lingua agiscono due tendenze contrastanti e tra loro opposte, come del resto agiscono in ciascuno di noi. Da una parte i processi di economizzazione ci portano alla semplificazione non soltanto del messaggio, ma anche dei repertori di forme a cui attingiamo per la creazione del messaggio. Però dall'altra abbiamo il bisogno di riferirci alla realtà dandone una descrizione che è tanto della realtà quanto della nostra realtà emotiva ricostruttiva, ricostruita che sia il più possibile fedele, aderente a quello che è il nostro pensiero, e questo ci porta ad aver necessità di risorse linguistiche che riflettano il nostro stato d'animo, e quindi questa tendenza va a combattere quella alla semplificazione, che in verità agisce, ma non agisce allo stesso modo a tutti i livelli della lingua. Come al solito il problema è quello dei contesti. Ancora una volta. Sì. Allora, andando al libro digitale, Lele, visto che adesso si scrive in digitale e i libri dovrebbero essere pensati per essere fruiti in quel modo, cosa cambia nella scrittura, se cambia qualcosa ovviamente? In realtà il supporto digitale non ha straordinarie differenze rispetto al supporto cartaceo. Noi ci troviamo a utilizzare un nuovo strumento che ripropone una metafora, soprattutto in questa fase di passaggio. Dal nostro punto di vista, noi abbiamo prodotto libri nativi digitali, sì, nel senso che alcuni dei nostri autori li abbiamo scovati su internet a partire della loro scrittura sul web, per esempio. È certo che in alcuni ambiti ha senso avere un tipo di scrittura che sia un tipo di scrittura più diretta, con tutto però che c'è amplissimo spazio. Io non sono sicurissimo, soprattutto in questa fase, che ci possa essere una grandissima differenza. Io credo che la buona letteratura stia su tutti i supporti. Una direzione può essere una direzione di pluralità di contenuti. Sempre di più lo strumento tablet, lo strumento smartphone consente di avere molti contenuti a disposizione, quindi probabilmente cambia il tipo di fruizione, una fruizione meno immersiva, il classico libro davanti al mare sotto l'ombrellone. Capitava ieri di essere in coda e di vedere una persona che invece che alzare il giornale di semaforo in semaforo alzava un Kindle, quindi insomma è evidente che stanno cambiando delle cose. Quindi da un lato ci può essere il fatto di sperimentare meccanismi che possano facilitare questo tipo di fruizione, ma la letteratura, quando è buona letteratura, sta su carta, sta sui byte. Professor Cardinale, se si leggeva il Manzoni, tra 100 anni chi si leggerà? Ma questo è... Tornando indietro... Sì, certo. Ma io credo che i ragazzi oggi abbiano riscoperto il piacere del leggere. Credo che loro leggano più di quanto non leggessimo noi, questo bisogna dirlo, altrimenti si percepisce un luogo comune che non ha un riscontro poi nella realtà. E certo, però una cosa bisogna dirla, non so, per esempio, di quante parole dispone oggi un giovane per parlare, per comunicare? Ma saranno massimo 300, magari anche di più. Certo, non possiamo dire è così, sì. Ma mediamente è così. E però se noi vediamo di quante parole, non so io, è fatto un romanzo contemporaneo, prendiamo, non so, Jack Frusciante, uscito dal gruppo di Brizzi, sono 400 parole. E se prendiamo Manzoni, non diciamo Dante, andiamo certo. Così. Quindi questa differenza c'è. Ora, allora io dico, le parole di un vocabolario possono arrivare a 250.000, anche di più, però il vocabolario fondamentale è fatto di un 10.000 parole, distinguendo tra basico, alto uso, eccetera. Basterebbe che i ragazzi potessero padroneggiare almeno queste 10.000 parole. Non solo i ragazzi, fra l'altro, nel senso che vale per tutti, certo, davvero, certo. L'argomentazione vale per tutti. Allora, prima di lanciare la pubblicità faccio questa domanda, così pensate, probabilmente qualcuno la risposta ce l'ha già, ma l'impoverimento della lingua alla fine fa impoverire anche il pensiero e la costruzione del pensiero, perché poi forse che lì dovremmo arrivare. Non rispondete, la pubblicità, e poi se volete intanto anche partecipare, il numero per gli SMS 349 238 6666. Il riposo del guerriero con Francesca Dragotto, Ugo Cardinale, Lele Rozza e Michele Tosi. Siamo a Salone del Libro di Torino, al padiglione Ilunga 166, il padiglione 2, però lo stand è Ilunga 166, non lo dico perché un'ascoltatrice, un ascoltatore, ascoltatore Claudio, scrive: perché non si comincia dando alle lettere italiane il proprio nome? Io avevo detto J. Uh-huh. pensando a Juventus per la verità, e quindi ho detto Jay, e invece mi ha bacchettato dicendo avresti dovuto dire Ilunga. La domanda con la quale ho lasciato i miei ospiti era: l'impoverimento della lingua fa in modo di impoverire anche il pensiero, perché diventa automaticamente meno articolato? Dicevamo che oggi forse si legge di più, perché grazie alla rete si legge di più, ma forse si legge meno, meno nel senso ci si ferma al titolo, all'occhiello, magari all'inizio dell'articolo, e poi si passa a un'altra cosa con i famosi iperlink, no? Ma comunque adesso di questo parleremo. Comincerei con Francesca Dragotto e comincerei dalla Ilunga, va? Ok, grazie. Beh, quello che inavvertitamente hai prodotto è l'esemplificazione della coesistenza di più varianti per esprimere la stessa cosa. Mi spiego: Jay, Ilunga, Iota per chi viene dalla tradizione classica sono modi alternativi per far riferimento a quel suono che in fonetica si chiama approssimante, ovvero un suono che non ha uno statuto rigido di vocale ma neppure di consonante, perché ha la sonorità tipica delle vocali ma la modalità articolatoria tipica delle consonanti. Quindi si può dire in tutti e tre i modi. Attualmente i parlanti preferiscono più l'anglismo o anglicismo Jay, per le ragioni su cui ormai abbiamo disquisito tante volte, perché il forestierismo, il termine straniero, esercita un fascino che spesso i termini della nostra tradizione non hanno. Che piaccia o che non piaccia, sicuramente questo esempio involontario dimostra come nel nostro sistema linguistico coesistano elementi provenienti da tradizioni diverse, provenienti da forme di contatto differenti, che sono tutti contemporaneamente presenti alla mente del parlante. Questa è la ragione per cui a te istintivamente è venuto in mente Jay, e è altrettanto corretta la ragione per cui all'ascoltatore o ascoltatrice invece è venuto in mente Ilunga. Poiché il suono è uguale, Juventus, se lo scrivessi con la Ilunga o con la I normale, ma di fatto non arriveremo a perdere poi Y e Ilunga in italiano? Beh, cioè la Ilunga più che altro. La Ilunga ormai è un fatto grafico, lo dimostrano le oscillazioni nei cognomi. Penso a Aiello, che si trova scritto sia sì, con la I che con la Ilunga, o Jay che dir si voglia. E di fatto, non essendoci uno statuto, come dire, il suono non è individuato come facente parte dell'alfabeto, o meglio viene inserito ma per indicare una nicchia di parole, e questo fa sì che lo si chiami, o meglio che lo si sia chiamato nella tradizione Ilunga. È per Ilunga, no? Tende, ci fa pensare alla I, quindi ce lo fa sentire meno estraneo. È una tendenza alla naturalizzazione quella che ci ha portato a chiamarlo Ilunga, se ci pensi fa riferimento al fatto che graficamente sì, sia una, certo, allungata, sì. Quindi Jay invece è il nome con cui nello spelling inglese si nomina il suono stesso e la corrispettiva lettera. Ecco, torniamo invece alla domanda, sì, principe, e leggo anche quest'altro messaggio che arriva da Claudio: senza la conoscenza dell'etimo delle parole non è possibile rendere concreto un pensiero che nasce astratto. Vorrei tanto che fosse così. Però questo imbriglierebbe completamente la nostra comunicazione, perché se tutte le volte dovessimo tener presente il valore che la parola ha oggi in sincronia e quello che invece ha avuto nel corso del tempo, che non sempre poi è il valore che la parola aveva originariamente, perché volte, appunto sì, abbiamo due etimologie: un conto è il significato della radice, quindi il primo significato, un conto è come poi questo significato si è evoluto nel corso del tempo. Appunto, se dovessimo contemporaneamente tener presente le accezioni attuali e quelle che si sono accumulate e stratificate nel corso del tempo, noi non parleremo più. Vi faccio un esempio banale: farina, che qualche secolo fa si pronunciava farrina, perché era il farro sminuzzato. Allora questo ci apre una finestra su quello che poteva essere il cereale utilizzato maggiormente per la panificazione. Però che succede nel momento in cui il farro viene soppiantato? È difficile che si butti la parola, perché la parola è funzionale e quindi la si risemantizza, quindi si usa per indicare un qualcosa di simile ma non identico, ed ecco qui che farina indica tutto quello che è sminuzzato. Allora, quindi va bene anche conoscere l'etimo, va bene, ma non è un valore aggiunto. Esatto, non deve rispettare necessariamente quello che diciamo. Il concetto resta, non rimane astratto. Ah, quindi Impoveriamo o no impoverendo la lingua? Poi lascio la parola agli altri. Impoveriamo il pensiero. Potremmo parlare un mese, forse anche di più, sì, su questa questione. Se dobbiamo stringere sulla questione della lettura, credo che la parola chiave sia dispersione. Quindi non credo tanto che sia una questione di quantità di cose che si leggono. Sì, è anche di quantità, ma anche di varietà. Quindi per dispersione mi riferisco al fatto che se ci si fossilizza su una lettura sistematica sempre delle stesse tipologie testuali, insomma leggo sempre o solo fumetti o solo, sì, libri per, ecco, necessariamente avviene, tranne rare eccezioni, un impoverimento. Dico tranne rare eccezioni perché ci sono scrittori che invece diversificano tantissimo il proprio lessico e anche la propria sintassi, sebbene sia in funzione di un pubblico non adulto. Quindi per arricchire cosa si deve fare? Si devono leggere cose diverse, ecco, in questo senso uso dispersione, perché leggere cose diverse ci mette a contatto con registri differenti, con linguaggi specialistici differenti e comunque con varietà diverse di lingua. Ugo Cardinale. Ma a proposito dell'impoverimento della lingua e del corollario impoverimento del pensiero, beh, direi certo attraverso la lingua noi sezioniamo la realtà in rapporto lingua-pensiero e entità esterna, quella che chiamiamo realtà, è molto interessante. Tra l'altro sarebbe anche interessante capire se noi prima pensiamo o prima parliamo, ma forse quando diciamo prima di parlare pensa ci sbagliamo, perché le due cose vanno probabilmente insieme. Ma volevo ritornare su un concetto interessante che, sì, ha toccato Francesca Dragotto. Sì, insomma, leggere cosa vuol dire? Bisogna saper leggere. Saper leggere cosa vuol dire? Vuol dire arrivare ad essere lettori abili e maturi. Che cosa vuol dire questo a sua volta? Bisogna capire che il problema è la comprensione di quello che si legge. Per poter comprendere più che capire e venire a capo di quello che si legge e essere in grado di riconvertire rapidamente quello che si legge, cogliere i nodi centrali di quello che noi leggiamo, addirittura riuscire ad anticipare quello che non abbiamo letto. Ecco, quando noi arriviamo a possedere questi strumenti, effettivamente possiamo dire che siamo dei lettori abili e maturi. E tra l'altro la velocità della lettura è direttamente proporzionale alla comprensione, il che vuol dire che, ecco, insomma, per spiegarvi, quando si legge l'occhio si muove non linearmente ma puntinisticamente, un po' come i piccioni quando beccano, in sostanza, sì, tac tac tac tac. Però più questo movimento viene compiuto rapidamente, più arriviamo rapidamente alla sintesi. Ma per far questo la scuola deve lavorare. Cioè, non è pensabile che un ragazzo diventi un lettore abile e maturo se non ha addestrato queste, come dire, sottoabilità che vanno analiticamente sviluppate, potenziate, e quindi c'è un addestramento. Come si fa però a svilupparle e a potenziarle? Perché per conoscere poi ciò che si legge, capire quello che si legge, più quello che si legge è, tra virgolette, complicato, cioè ricco di vocabili, e meno è comprensibile, certo. Per cui è un gatto che si morde la coda. Ritorno ancora al problema che avete toccato prima, l'etimo, no? L'etimo, perché parlando di etimologia si parla di lingue antiche e di lingue classiche. Ora, noi cerchiamo di farci un'idea chiara: anche senza le lingue classiche si può arrivare in cima al mondo, con le lingue classiche forse un po' più in là. Quindi non è necessario che si studiano, ma se si studiano è un valore aggiunto, lo diceva, sì, Francesca prima. Ma non so, pensate per esempio ad un, ecco, ritorniamo alla lettura. Lettura da quale etimo viene? Da un etimo indoeuropeo che era leg, e via via si è passati poi al greco e al latino leggere. Leggere vuol dire mettere insieme, mettere insieme, e il che vuol dire raccogliere, ecco, in questo senso qui. E allora è il senso proprio della lettura oggi, cioè quello che, dunque, dopo aver, come dire, esercitato quelle abilità di cui dicevo, si arriva a, come dire, alla sintesi, cioè alla comprensione. E allora questo dimostra che nell'etimologia c'è un significato remoto e un significato recente. E molto spesso capita che il significato remoto sia più vicino al significato attuale di quanto non sia il significato recente. Ha ragione quindi la Francesca quando dice che etimologia vuol dire fare la storia della parola e vedere i significati come si siano attestati via via nel tempo e non limitarsi alla radice. Per cui io diffido sempre di tutti quelli che vogliono fare etimologia spicciola, anche perché poi capita che alcune parole che noi identifichiamo come inglesi, ecco, c'è anche questo problema alla lingua italiana, l'invasione, gli anglicismi, certo, distrugge la lingua, insomma, sono cose anche da ridimensionare, perché molto spesso questi anglicismi non sono altro che dei latinismi o dei grecismi che ritornano, non so, faccio un solo esempio, computer viene dal latino computare, non so io, sponsor viene dal latino spondere, quindi alla fine ritorniamo sempre a questo zoccolo è sempre nostro. Per chiudere il discorso, sì, il problema è questo: un ragazzo che si sia esercitato in un'attività di traduzione, in un'attività ermeneutica e che sia capace di venire a capo del significato di quello che traduce, sì, vuol dire che mette a fuoco una serie di abilità, tra cui quella più importante, che è un'abilità testuale. Questa abilità testuale vuol dire che noi dobbiamo riuscire a volte a collegare le parole al di là anche delle frasi. Che cosa? Non possiamo dire solo la frase, ma andare oltre la frase. Cosa tiene in piedi anche le frasi? Quali sono le giunture delle frasi? Ecco, un ragazzo che traduca dal greco o dal latino, certo, tradurre da queste lingue non serve a niente, ma serve certamente a imparare questo. Ecco, questa è la chiave, poi è qui. Lele Rozza stava facendo una riflessione prima, mi stavi raccontando. Sì, io sono faccio un po' il Pierino, sì. Non sono così sicuro che andiamo verso un impoverimento della lingua, e non sono così sicuro che la prosecuzione del ragionamento che tu facevi, cioè complicazione uguale tanto vocaboli, sì, valga, nel senso che tutto sommato io ho l'impressione che non è una questione di numero di vocaboli o di qualità dei vocaboli, ma è una riflessione che stiamo facendo anche noi ricostruendo un po' la letteratura in chiave digitale, è anche quella di produrre dei contenuti che siano efficaci. Allora, uno dei punti probabilmente è che da un lato noi abbiamo una straordinaria necessità di arrivare rapidamente e bene. Ti dico una banalità, ma sempre di più, se tu, prima di comprare un ebook, tu puoi leggerne un estratto. Sì. Amazon ti offre un estratto, noi offriamo addirittura il primo capitolo. Sempre di più, quando insegniamo anche la scrittura, raccontiamo che l'esigenza di coinvolgere, di raggiungere il lettore è fondamentale. Allora, tutto questo transita per una competenza che sta aumentando e conseguentemente per una gradevolezza, a mio modo di vedere, che sta aumentando, nel senso che il tipo di comunicazione, il tipo di utilizzo delle parole, il tipo di obiettivo che si raggiunge non è più così solo ed esclusivamente semplificante, ma diventa un obiettivo che deve essere da un lato rapido e dall'altro efficace. I tweet, Twitter, sono i 140 caratteri. Io sono convinto che ci siano dei tweet che sono dei capolavori di colore, di passione, di tensione, di intensità in 140 caratteri. Questo naturalmente diventa un esercizio feroce, perché bisogna limare, togliere, utilizzare solo i termini giusti e soltanto i colori giusti. Il combinato disposto di queste cose ci porta senz'altro ad analizzare con attenzione, e i colleghi lo hanno fatto bene, un momento di passaggio, ma forse lascia anche aperto, come dire, uno spiraglio di speranza. Ecco, tra l'altro, quindi insomma, stai con questo discorso, ma non solo tu, vedo che anche Cardinale, incontro ai copywriter che sono, certo, i più amati, certo, a questo punto. È difficile, aspetta Michele. Il riposo del guerriero. Sempre in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, Michele Tosi ha fatto un salto sulla sedia perché tocca a lui parlare, ma soprattutto perché aveva le cuffie molto alte. Allora Michele, sì, Lele ha detto una cosa bella, parlando di Twitter, sì, dice in 140 caratteri la difficoltà è riuscire a rendere un pensiero in così poco spazio e quindi per poterlo fare bisogna ragionare bene, conoscere i vocaboli, saperli mettere insieme, sì, bene, ed è quello che fa il lavoro che fa il copywriter, spesso, sì, ha molti meno di 140 140 caratteri. Molti meno, sì. Infatti io fino al suo intervento mi sentivo un po' il sicario poco istruito che uccide la lingua, e invece in questo momento no, mi rendo conto che il lavoro che faccio io è esattamente quello di stringere, sintesi massima e scelta di ogni parola con il peso che ha ogni parola, cioè ogni parola ha un peso specifico che si porta dietro. E nella pubblicità è proprio quello di prendere quelle giuste, trovare quelle migliori, che possono però avere delle vocazioni. Quindi l'impoverimento che c'è in questo momento a volte in pubblicità viene sfruttato perché si tira fuori un vocabolo, un aggettivo che crea un'emozione diversa e nuova, per cui questa cosa potrebbe sfruttare l'uso della parola per farla diventare interessante e magari proporla. Ritirarla ecco, fuori. Però nel lavoro di un copywriter, per arrivare a questo ci deve essere molto dietro, perché sennò come si fa ad arrivare a questo? Quindi vuol dire che devi aver letto molto, conosciuto molto, guardato molto. L'esposizione che deve avere un copywriter è incredibile, cioè dal teatro al cinema, dai retrocopertina dei libri, non di più, perché non c'è tempo di leggere tutto il libro. Io sono un allievo di Michele Torri, ve lo volevo dire, perché io nasco come copywriter ed ero un suo allievo. Ecco. Il grande. Poi Manuel chiaramente l'allievo ha superato il maestro. Esatto, una sedia più alta, esatto. Anche no, il fatto dei libri, ad esempio il grande Emanuele Pirelli diceva che un copywriter non deve leggere tutto il libro ma solo il retrocopertina, perché più che sufficiente lì c'è già la sintesi, c'è tutto il meglio di quel libro. Ovviamente è un'esagerazione, però l'esposizione in questo momento, soprattutto con l'avvento digitale, è molto più pratico, molto più utile, è frenetico, sempre più frenetico, perché i 140 caratteri, gli SMS, tutte queste formule nuove di comunicazione nella pubblicità devono esserci, perché è il nuovo linguaggio e la pubblicità segue. Ecco, segue. Prima del GR ci sono, volevo così qualche risposta, chi vuole rispondere può farlo, su alcune domande degli ascoltatori. È vero che siccome oggi usiamo gli smartphone e il tablet in generale, quindi le parole sono accompagnate dalle immagini, e quindi questo significa usare meno parole perché in fondo le immagini già dicono tutto. Rispondo io? Non so se vedo un Lere che dice no, mi guarda dicendo no, non è vero assolutamente. Dipende il campo, in pubblicità sì. In pubblicità sì? In pubblicità sì, perché l'immagine e le parole vivono su certi mezzi, sì. In parallelo. Certo, dalla cinema, una da forza all'altra. Esatto, tanto il contrasto, sì. Si gioca sui contrasti, si gioca sulle esplosioni dei significati dell'immagine rispetto alla parola. In radio no. In radio no. Beh, certo, è fin troppo facile dire che nel cinema o in pubblicità il linguaggio verbale finisce per essere penalizzato, però basta immaginare quello che accade quando due persone comunicano vis-à-vis, una di fronte all'altra, per vedere che è normale l'interazione tra forme diverse di linguaggio, il rossore, la posizione rispetto all'interlocutore, la posizione rispetto a eventuali altri partecipanti, rispetto allo spazio, quelle sono altre forme di linguaggio, le chiamiamo paralinguaggio, perché o anche l'intonazione, l'altezza della voce, la voce che per un attimo manca, quindi l'interazione, la multimodalità della comunicazione è una caratteristica fondante della comunicazione viva, concreta, quindi, reale. Non è vero quindi che si perde in questo senso. Giovanna scrive, sono una maestra elementare in pensione e sento con tristezza il linguaggio sciatto e povero, spesso volgare, usato in radio e in televisione. In compenso si usano termini inglesi per mostrarsi competenti e alla moda. Cardinale. Ma secondo me qui si amplifica un fenomeno che certamente è esistente, ma non mi pare così pervasivo. Sì, c'è questa tendenza che è tipica un po' degli italiani, di eccedere nell'uso della terminologia inglese. A volte potremmo farne a meno, ma d'altra parte anche, non so io, alla Camera dei Deputati c'è la question time, si potrebbe anche dire in italiano, a volte non so io, pausa caffè, non c'è bisogno, diciamo coffee break. Cioè, quando noi abbiamo l'equivalente in italiano che rende bene l'idea e immediatamente comprensibile, ecco lì forse sarebbe meglio usare l'italiano. È una questione di snobismo. Però dire che questa invasione degli anglicismi impoverisce la lingua italiana o addirittura mette a repentaglio il sistema linguistico italiano, questo non è vero, perché... Ecco. Vedremo anche come, proprio parlando delle Olimpiadi della lingua italiana, come in realtà ci sia proprio interesse. Abbiamo qui anche degli studenti che hanno vinto o che sono classificati molto bene. Racconteremo in cosa consistono le Olimpiadi e forse giocheremo anche con voi ascoltatori nella seconda parte del Riposo del Guerriero. Vi ricordo i numeri intanto, il numero per i vostri sms 349-238-6666, mentre c'è la pagina di Facebook Riposo del Guerriero, c'è Francesca Dragò che risponde per voi, perché io non riesco a farlo con un computer, lei ne ha un altro e ci pensa lei, quindi le domande le legge e risponde direttamente da qui. A tra poco. Il riposo del guerriero. Le 11:06, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il Riposo del Guerriero in diretta dal Salone del Libro di Torino. Siamo al padiglione 2, stand Ilunga 166 o J166, come dir si voglia, ormai questa questione l'abbiamo chiusa e spiegata. Anche stiamo parlando di lingua italiana e stiamo cercando di capire se davvero la lingua si sta impoverendo e in che modo, e se la lingua, se è vero che si sta impoverendo, sta anche impoverendo il ragionamento, il modo di far relazionare tra loro le parole, per capirci. Forse non è così. Adesso introdurremo le Olimpiadi della lingua italiana che ci sono state, ma prima di farlo io volevo chiedere ai nostri ospiti volevo fare una domanda, scusate, che riguarda diversi sms che sono arrivati. Ne volevo scegliere uno, ecco, quello di Aldo, che dice: nascondete il vero problema, che sarebbe quello di non ammettere l'ignoranza dilagante giovanile, perché anche per fare un sms intelligente occorrono scelte linguistiche. A parte che al posto di fare avrebbe dovuto usare scrivere, allora, a questo punto, giusto? Se vogliamo mettere i puntini sulle i, c'è anche la scelta, no? Di questo parlava, di scelta di parole per un sms. E quindi il concetto è l'ignoranza dilagante giovanile. Cardinale, sì, mi ha guardato, ma, posso parlare, sì. Ma io non sarei d'accordo su questo, perché quando si parla dei giovani bisogna stare attenti a non accomunarli in un'unica categoria. Parlare dei giovani e parlare del linguaggio dei giovani significa toccare un argomento che ha a che fare con una materia liquida. Ci sono gruppi di giovani che parlano e si esprimono in modo gergale e che si capiscono soltanto all'interno dei loro gruppi. Esiste però un settore cosiddetto dei fighetti, così li definisce Sobrero, e sono quei giovani che parlano e scrivono molto bene, sono anche molto ricercati. Io ho letto delle lettere, per esempio, inviate ad amici, ma sono delle lettere bellissime, un linguaggio non solo efficace ma anche ricco e suggestivo. Ecco, quindi bisogna stare attenti. Però quello che si può evidenziare è questo: i tratti del linguaggio giovanile presentano i tratti di una comunicazione interrotta nei confronti degli adulti, questo sì. Tanto è vero che si parla non tanto di una lingua madre, ma di una lingua fratello, che è quella lingua che i ragazzi usano tra di loro e in cui si identificano e che consente una rapida comunicazione tra di loro. Però questo è un aspetto, ci sono altri aspetti che vanno naturalmente considerati. Io credo che la difficoltà del giovane che usa la lingua oggi consista nella applicazione di regole che in sé sono giuste grammaticalmente, ma che non funzionano poi operativamente nella lingua che si adotta. Faccio un esempio. Si capisce che la lingua ha dei meccanismi che consentono di comporre parole, di creare parole. La lingua va avanti, non si ferma. Però molto spesso i ragazzi usano, non so io, delle suffissazioni sbagliate. non so, per esempio lo dicono inglobamento, accomunazione, non è che il suffisso mento o zione non esiste. Certo che esiste in teoria, ma viene applicato male. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che questi ragazzi hanno bisogno, come dire, di fare più letture, di essere maggiormente guidati dalla scuola a scomporre le parole e a far capire che le parole si possono formare attraverso procedimenti che sono di derivazione, che sono di composizione, e quindi anche loro possono, come dire, coniare dei termini. Non so, per esempio, leggendo Topolino dice garofanare la città, e certo in teoria il suffisso c'è e si può trasformare un nome in un verbo, certo che si può fare. Beh, bisogna vedere poi se garofanare entra nei vocabolari della lingua italiana. Lo quindi, possiamo far entrare, no? C'è, a questo punto. Sì, c'è, come dire, un processo virtuale e poi c'è un processo reale. Quindi se non si analizza il linguaggio giovanile da questo punto di vista, io credo che prendiamo delle enormi cantonate. Ecco, tra l'altro, proprio riguardo a questo, la conoscenza della lingua, si sono svolte le Olimpiadi della lingua italiana e hanno coinvolto tutta l'Italia. Sono, o leggo, 15.000 studenti di 1.500 scuole di ogni grado. E abbiamo qua dei vincitori, forse uno di loro non è proprio vincitore, è arrivato quarto, Guido, se non mi sbaglio, vero? Allora, cominciare da Guido Bruniera, quarto liceo scientifico Avogadro di Vercelli. Ciao. Ciao. Allora, ti sei classificato quarto, neanche sul podio, ti sei arrabbiato per questo? No, ero già felice di essere arrivato quarto, già di essere lì, diciamo. Allora, tu hai un amore spassionato per la matematica, hai detto. Sì. Piace molto la matematica e la fisica in particolare. La lingua italiana ha qualcosa a che fare, secondo te, con la matematica? Cioè, perché ti ha appassionato anche la lingua italiana? Ma indubbiamente la lingua italiana intanto serve per comunicare. Senza la lingua italiana non potremmo comunicare a qualsiasi livello, anche in matematica e fisica, per spiegare la lezione. Se non si conosce l'italiano non la si può spiegare. Diciamo che dell'italiano mi ha appassionato più che altro, come dire, le regole del lessico e l'utilizzo delle parole, per quello che ho provato. Quindi ancora una volta, regola o equivale a matematica, insomma. Sì, ancora una volta molto, è quello, sì, molto schematicamente, molto razionalmente così. Ecco, l'italiano ti affascina sicuramente. Leggi molto e che cosa leggi? Non leggo tantissimo, soprattutto durante l'anno, perché probabilmente impegni scolastici ed extrascolastici. Leggo un po' di più durante l'estate, ma non sono uno di quei ragazzi che legge molto. Cosa ti ha permesso di arrivare quarto allora? Non lo so. L'intelligenza, lo sei so. Riuscito ad arrivare alle soluzioni senza ma non la lo conoscenza. So, diciamo che diciamo, nello scrivere me lo cavo abbastanza bene, e una parte del test in effetti era di componimento, proprio di quattro testi. Per l'altra parte, diciamo, indubbiamente un po' di fortuna e a quanto pare le conoscenze che avevo erano sufficienti. Ecco, al tuo fianco c'è Anna Vanoli, che è la professoressa. Buongiorno, benvenuta, grazie. Allora, lei quanti anni ha? Mi scusi se lo chiedo a una donna, non si chiedono mai, ma io lo faccio invece per capire la differenza generazionale. Lo faccio. Ne ho 47. Ecco, invece Guido ne hai 17, ecco, perché è al quarto. C'è divario, ovviamente. Cos'è la cosa più difficile da insegnare ai ragazzi oggi? È vero che conoscono così poco la nostra lingua, che leggono poco? In parte sì, ma la cosa più difficile è appassionarli. Quando uno riesce a lasciare questo messaggio, allora poi ottiene dei risultati. Qual è la chiave per appassionarli? Non lo so, un po' di fortuna direi, soprattutto. La sua classe è composta, quante persone ci sono? Quella di Guido da 27 allievi. E come vanno in generale, dovendo fare così una media? È una classe molto eterogenea. Immaginavo. Ma proprio tanto eterogenea. Ci sono risultati diversi. Quello che posso dire è che comunque sono cresciuti negli anni e questo è un buon successo. Anche degli insegnanti, ovviamente, se siete riusciti a farli crescere. Sì, però la cosa più importante secondo me è che loro percepiscano gli input che la scuola deve dare, quindi che imparino a essere curiosi dopodiché devono comunque, e ritorna al primo termine, appassionarsi loro, perché la scuola non può che dare degli input. Certo, poi bisogna andare avanti, ovviamente, anche per conto proprio. Allora, qui sempre nel fra il pubblico c'è anche Alessandro Sala, Tiziana Levi, Elena Sala e Lorenzo Sala. Sono una famiglia, sono quattro persone, e li abbiamo qui perché Lorenzo ha vinto, giusto, le Olimpiadi della Lingua. E Lorenzo, eccolo qua. Ciao Lorenzo. No. Ecco. Tu hai vinto. Cosa hai avuto? Cosa avevi in più degli altri? Cosa hai in più degli altri? Leggi tanto, non lo so, quando ma, ti confronti con i tuoi amici. Quanti anni hai innanzitutto? Ne ho 11. 11 anni. Ma allora, cosa ho in più? Sinceramente non lo so. Credo... niente, credo solo... Ma come sei visto dai tuoi compagni? Il secchione, quello che studia di più degli altri, quello che legge di più degli altri, sì? Abbastanza, per... non è che mi chiamino proprio secchione. Però, insomma, quello è... Sì. Quello... E ti piace questo... Questa etichetta ti fa ma piacere? Sì, sì, non, giustamente. Non mi guasta. Sei orgoglioso di questo? Sì, abbastanza. Cosa leggi? Ma leggo un po' di tutto, dipende da cosa c'è lì in quel momento. Quindi insomma, quello che ti... Anche il giornale leggi? Sì. Quando... Sì. Allora, sentiamo Alessandro, oppure Tiziana, non so, i tuoi genitori sono qua, Tiziana la mamma. Ecco, Tiziana, velocemente, prima di dare la linea al traffico, voi siete lettori in famiglia? Cioè, cosa avete trasmesso a vostro figlio, sì, in questo diciamo senso? Diciamo che lui è più lettore di noi, a proposito di quello che diceva anche il professor Cardinale. Quindi da quando è piccolissimo lui ha cominciato con Topolino e ha continuato con Geronimo Stilton, Harry Potter, Percy Jackson, tutti questi, questa letteratura per ragazzi, ma i fumetti, effettivamente... Guai, guai, con i fumetti si perde tutto, no? Qualcuno pensa no, questo. No, anzi, non pensavo che Topolino potesse trasmettere così tanta cultura, invece è proprio così e lui ha preso tantissimo da questi primi fumetti. Adesso legge effettivamente di tutto, quindi letteratura per ragazzi, ma anche... articoli, giornali, riviste. Come diceva la professoressa Vanoli, alla fine se ci si riesce ad appassionare o a fare in modo che qualcuno si appassioni, sia la chiave del risultato. Il riposo del guerriero. A proposito di giovani e pubblicità, anche adesso Michele Tosi, il nostro copywriter, diceva anche la pubblicità ha qualche difficoltà a parlare con un pubblico giovane. Sì, infatti stavo proprio prendendo spunto da questi interventi per dire è una buccia di banana la comunicazione che spesso i pubblicitari fanno ai giovani, ai teenager, ragazzi, eccetera. Perché prima di tutto c'è un rifiuto della pubblicità dicendo no, non casco nella trappola di chi mi deve vendere qualcosa, che io sono diverso, non mi faccio influenzare. Dall'altra c'è una difficoltà a usare gergo, modalità, struttura linguistica che, come diceva il professore, è veramente un fatto liquido in continua espansione, per cui è difficilissimo da gestire, per cui è più facile comunicare con le responsabili d'acquisto più mature, giovani famiglie, e con i giovani spesso si usa la chiave della demenzialità, della sorpresa, della musica o del testimonial. Si usano altri modi perché non si riesce a usare il linguaggio. Perché la demenzialità piace ai giovani, se è vero, Francesca Dragotto? Perché la demenzialità piace? Ma sicuramente c'è una chiave che spesso al pubblico adulto può sfuggire, perché non è facile a priori definire cosa sia o meno demenziale, ma c'è tutta una serie di stereotipi da demolire. Io, mentre tu mi facevi questa domanda, continuavo a riflettere sulla questione dei fumetti, in particolar modo di Topolino. Sì. Senza Topolino, Tapino non sarebbe certo una parola conosciuta dalle nuove generazioni. Recentemente sulla Stampa è uscito un articolo che infatti sono andata a ricercare, in cui si fa una lista delle cosiddette parole ostiche, parole che comunque vengono utilizzate nei diversi numeri di Topolino, e tra queste erudito, diafano, intabarrato, Ora, una parola come intabarrato, il tabarro, il mantello, difficilmente la si potrebbe conoscere se non... Si leggesse Topolino. Certamente. È per questo che si vincono le Olimpiadi della lingua italiana anche. Anche, soprattutto se il contatto avviene da quando siamo molto piccoli. E poi dobbiamo demolire il luogo comune per cui il fumetto è rivolto alle generazioni più giovani, soprattutto ai più piccoli. Non è vero. C'è una grossa fetta di lettori che è costituito da adulti e anche da adulti che hanno buone competenze linguistiche e culturali. La verità è che per uno stesso prodotto ci possono essere chiavi di lettura differenti e quindi ciò che si riesce a recepire da un testo varia anche col variare di quello che si sa. Lo stesso testo dice cose diverse a lettori diversi, ma anche allo stesso lettore in fasi differenti della vita. Perché quando ci accingiamo a leggere e comprendere un testo non lo facciamo in maniera neutra, ma lo facciamo presupponendo un inventario di conoscenze. È come se ognuno di noi avesse a disposizione un'enciclopedia, tutto quello che sa, non soltanto perché l'ha studiato, ma perché l'ha esperito direttamente. Allora, questo che significa? Che quando andiamo a leggere non ci limitiamo al significato che la parola ha, ma rievochiamo contestualmente alla lettura tutto quello che sappiamo di quella parola. E il risultato è che il testo compreso, quello che ciascuno di noi comprende del testo, è diverso. Quindi è una convenzionalità quella che ci fa credere che a parità di testo tutti capiamo la stessa cosa, è la convenzionalità stessa che ci permette la comunicazione, ma di fatto non credo esistano due persone che leggendo un testo possano arrivare a capire esattamente le stesse cose. È un artificio, è appunto una convenzione che è bene che ci sia, ma su cui si dovrebbe riflettere. Ecco, proprio su questo allora, se dobbiamo trovare invece un linguaggio che riesca in qualche modo a unire tutti e a essere compreso nello stesso modo, e qui torno un po' forse alla pubblicità, è lo stereotipo, quindi usare gli stereotipi per raccontare qualcosa. Però usare gli stereotipi significa anche, dal mio punto di vista, convincere le persone che, non so, tutte le donne lavino i pavimenti, tutte le donne abbiano i gonfiori di stomaco, tutti gli uomini invece abbiano l'acidità di stomaco, perché non è delle donne ma è solo degli uomini, no? Perché pubblicità usa solo gli uomini per certe cose, solo le donne per altre, e quindi tutto questo poi ci incanala in un modo di pensare anche la nostra vita, o mi sbaglio? Se posso rubare un altro minuto prima di passare la parola a Michele, che su questo avrà senz'altro tomi e tomi di cose da dirci. Usare lo stereotipo o ricorrere sistematicamente allo stereotipo è la soluzione più semplice, perché se esiste uno stereotipo è perché dietro c'è un'ideologia che lo supporta e questa ideologia è condivisa dalla massa. Se voglio avere possibilità di raggiungere con il minor sforzo possibile, perché la comunicazione implica uno sforzo sia per chi la produce sia per chi la riceve, allora ricorrere sistematicamente allo stereotipo riduce apparentemente il carico di lavoro che è richiesto a un destinatario per comprendere il messaggio. Qual è il problema? Il problema è che non si va a sviscerare realmente il reale, si ragiona in maniera approssimativa perché si dà in pasto ai destinatari quello che loro si aspettano. Quindi non ci si può aspettare che poi ci sia un processo di messa in discussione, di crescita, che non si attivi una criticizzazione di quanto si legge, di quanto si vede, si ascolta, si riceve. Il problema essenzialmente è questo. Quindi lo stereotipo in sé non ha nulla di male, perché se esiste lo stereotipo è perché c'è una certa situazione. Sì. Lo stereotipo riflette una certa situazione, però accettarlo passivamente significa condannare se stessi a un'immobilità che poi non riflette invece la situazione reale. Pensiamo allo stereotipo della famiglia, come la pubblicità riflette lo stereotipo della famiglia, come se ci fosse un solo modello possibile di famiglia. Sì. Non è assolutamente come così, no? E i pubblicitari se ne stanno accorgendo solo da poco. Ma ve ne state accorgendo o non ve ne state accorgendo? Ride. Non lo so. Non lo so, dipende molto dal prodotto. Dipende dal prodotto e dal momento, dalla situazione. Per cui sì, è ovvio che ce ne stiamo accorgendo, ma molto spesso non è l'acceleratore che serve per quel prodotto, quel tipo di sgrammaticatura o di illustrare il tipo di famiglia diversa. Io, come sai, mi ero portato dei contributi per dire come a volte, e parlo qua del più recente Via Cal, sì, dove non è vero che la famiglia perfetta, la donna è sempre lei a dover fare faccende, eccetera. Per cui, ecco, l'ascoltiamo un attimo così sentiamo Cal, di cosa stiamo parlando. Mamma in visita. Bagno! Finito? sì, ma... Non ha usato l'anticalcare? Mica possiamo usarlo tutti i giorni. Se no, addio lavandino. Tranquille, è via calma. Mamma lo usa sempre. La sua formula speciale agisce solo sul calcare, senza rovinare le superfici. Bello il vostro bagno. Segreto di famiglia. Allora è vero, è lui che pulisce il bagno, ma innanzitutto c'è la mamma alle spalle che è cattivissima perché dice mamma in visita e quindi devo pulire per forza. Esatto. È un segreto di famiglia, quindi arriva dalla mamma, quindi è ancora lei, la regina della casa in questo senso, e ha due amiche, ha le due vicine di casa di fianco. C'è un controllo incrociato da paura. Però questa trasgressione, cosiddetta trasgressione... Ci abbiamo provato. Ecco, io volevo farvi sentire quella invece di Nelson Piatti, che ha forse 30 anni di distanza, era più trasgressiva. I piatti, con Nelson Piatti li può lavare lui. I piatti vengono così puliti che addirittura è lui che li vuole lavare. È così facile che... Che è così facile. È così facile che anche lui, che proprio non potrebbe... No, beh, questo è un modo per usare comunque ancora una volta uno stereotipo. Sì. Cioè, i maschi non sono capaci di fare certe cose, per cui facendoli fare a loro vuol dire che è facile. Stereotipi. Comunque per forza. Sì, puoi... Insericiti perché questo è l'aggancio alla prossima puntata del Riposo delle Guerriere. Benissimo. Benissimo. E sulla pubblicità di Via Cal concordo sicuramente con la tua analisi, però vorrei invitare a vederla, l'abbiamo vista tutti, però vorrei invitare a riguardarla mettendo a fuoco la tipologia di uomo prescelto. È un tipo d'uomo su cui la pubblicità negli Stati Uniti ha iniziato a puntare intorno alla metà degli anni 90 e che rappresenta il maschio eterosessuale americano. È stato coniato in inglese un neologismo per definire il modello Riccardo Festa, l'attore che impersonifica il povero figlio che ha la mamma che deve sigillare la pulizia del bagno in visita, metrosexual, quindi è metropolitan più eterosexual, metà degli anni 90, ed è, se lo volessimo glossare, l'amico delle donne. Quindi non è una donna, per carità, no. Ma non è neppure lo stereotipo maschile del per l'uomo che non deve chiedere mai. Sì. Quindi c'è stata una scelta di rottura, ma anche di continuazione rispetto ai modelli maschili precedenti. Si inserisce con un po' di originalità, ma comunque si inserisce perfettamente nello stereotipo che vede come deputata alla pulizia una figura in particolare, o comunque una tipologia che poi ammette delle varianti, e questa è una variante, sicuramente la punta dell'innovazione, ma comunque non stravolge il canone. Su Nelson Piatti, famosissimo, il primo, quello che ha sancito, non solo ha sancito la fortuna del jingle, ma addirittura è riuscito a fossilizzare in senso positivo il brand, quindi il marchio Nelson, all'interno dello slogan stesso. È una cosa che capita soltanto quando il jingle o lo slogan sono davvero ben fatti. Che significa fossilizzazione? Significa che sentendo la parola Nelson immediatamente nella mente dell'ascoltatore scatta il motivetto. Questo ce la dice lunga su quanto fosse ben congegnato. Il vuol. Innanzitutto c'è una seconda versione di questa pubblicità che non diceva vuol, ma diceva può. O perlomeno così tantissime persone la ricordano. Io devo essere onesta, ho cercato la versione su YouTube del può lavare lui, non l'ho trovata. Però ho sentito tante persone che ricordano che per un periodo ci fosse vuol e per un periodo ci fosse può. Non è una questione linguistica, c'è una differenza. Ritorniamo al discorso di prima. Perché dietro all'uso di questi verbi c'è il rimando al contesto della società italiana, perché li può lavare implica la possibilità proprio della rottura, sì, rispetto all'attesa. Li vuol è un passo ancora più in avanti, perché non solo li può, ma manifesta l'esplicita intenzione, l'esplicita volontà di fare un qualcosa che stando alla società, stando ai modelli imperanti, non gli competerebbe, per cui è un qualcosa che gli dà anche piacere. Non ci dimentichiamo che il protagonista era vestito in smoking. Sì, ecco, questo poi apre poi un dibattito enorme, che è lo stereotipo e a che cosa ci ha portato anche al modo di pensare. Volevo farvi chiudere con una frase, ma non riesco perché non ho veramente più tempo assolutamente, quindi grazie a Rele Rozza, direttore editoriale di Blanc, che è una casa editrice che produce esclusivamente libri in digitale, ma ne riparleremo nelle prossime puntate del Riposo del Guerriero, perché spesso raccontiamo il digitale. Grazie a Michele Tosi, copywriter, Francesca Dragotto, la nostra grottologa, professor Ugo Cardinale, grazie di essere stato con noi al Riposo del Guerriero, e insomma, poi continuerete a essere ospiti anche in altre puntate. puntate e grazie, c'è anche il pubblico qua e noi andiamo avanti con il riposo del guerriero perché è il momento del nostro gastronauta. Il gastronauta Davide Paolini, ciao, buona giornata. Buona giornata a tutti e anche ai tuoi radioascoltatori presenti. Eccoci qua. Allora, oggi che cosa ci parli? Di cosa ci parli? Mi viene in mente di pensare che in alcuni ristoranti, in alcuni luoghi di ritrovo anche dove si beve, cominciano a essere presenti anche i libri. Cioè si legge, si beve, si mangia, cioè come se fossero posti dove non ci si limita semplicemente a gustare qualche cosa, ma ci si informa anche o addirittura appunto si legge, quindi si aumenta la propria conoscenza. O non è così? Bah, sai, è abbastanza così. Credo però che ormai i libri, quelli più letti e più diffusi, siano quelli di ricette. Sembra che all'improvviso questo paese sia diventato un paese di cuochi e di cuoche. Io credo che molti di questi libri vengano comprati così, per tenerli in bella evidenza quando si va a trovare qualcuno a casa. Ma vorrei riprendere su questo una frase stupenda che ho letto tempo fa su un settimanale, che diceva che gli italiani, molti italiani, anzi ormai un numero incredibile di italiani guardano le trasmissioni televisive di cibo, comprano libri di ricette di cibo e poi in realtà se si apre il frigorifero comprano solamente piatti già pronti. Ecco, credo che questa sia la fotografia bellissima, cioè di questa dicotomia che c'è tra appunto cosa si vuol far vedere e poi in fondo cosa si fa. Ecco, io credo che molti di questi libri, come dicevo, servono semplicemente a essere mostrati, poi quando si va al supermercato. Ecco, ti ho perso, però ho capito perfettamente, è un po' come se ci fosse il sogno, no? Davide, il sogno, quindi il gusto di guardare una ricetta, di leggerla, di vedere delle foto, immaginare di poterla preparare e poi non farlo alla fine. È un vorrei ma non posso. Cioè, ecco sì, è un vorrei farlo, ma poi magari c'è qualcuno che parla sempre del tempo. Che le ecco, ma lavorano. Almeno questo, scusa Davide, ma almeno questo può aiutare in qualche modo ad avere più conoscenza di quello che si mangia in generale, quindi anche quando si va fuori a mangiare, oppure secondo te non aumenta la conoscenza e quindi l'aiuto in questo senso? A cercare il meglio. Non aiuta assolutamente, perché questi libri non parlano della cosa fondamentale, degli ingredienti e delle materie prime. Se uno ciò che c'è da imparare a comprare i prodotti più che fare le ricette. E ormai invece c'è questa parte che forse è più spettacolare, anche perché mettiamo il boom degli chef e via di seguito, ma in realtà ci dovrebbero essere molto più libri che spiegano perché un pomodoro piuttosto che un altro, come vengono prodotti, diciamo, certi tipi di ingredienti che poi servono in cucina. Ad esempio sul vino, oltre che avere un giudizio sul vino, capire quel vitigno, perché è in quel territorio. Io credo che manca questa parte, cioè la parte vera della conoscenza, l'altra veramente è superficialità, tanto basta aprire un televisore e vedere certe lezioni di cucina, insomma c'è da buttarsi a terra da ridere, perché vengono usati dei prodotti che veramente io credo che in una famiglia normale non dovrebbero mai essere usati. E quindi credo che la conoscenza non aumenti per niente. Manca un certo tipo di letteratura che dà appunto questa conoscenza di fondo, che è quella determinante. Oggi ciò che conta è la conoscenza del prodotto, ciò che si mangia, non ciò che viene cucinato. Grazie Davide, ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata. Ciao, ciao. 11:34 ci sono le previsioni del tempo e poi giochiamo con il nostro mistero in 24 minuti. Il riposo del guerriero. Un mistero in 24 minuti. Anche in diretta dal Salone del Libro di Torino, al padiglione 2, stand Ilunga 166, c'è il mistero 24 minuti, 800 24 00 24 per partecipare. Ci sono 1000 euro per voi da spendere in libri digitali o cartacei su libreriarizzoli.it se riuscirete a risolvere il mistero, che può essere un personaggio famoso, qualcosa di conosciuto, oppure una delle notizie della settimana. Il primo indizio di questa settimana, eccolo qua. It's mine. primo indizio e anche il primo a partecipare, Federico Da Lucca. Ciao Federico, buona domenica. Pronto? Federico, non lo sento. Ecco, lo sento bassissimo. Eccoti che adesso ti sento un po' di più. Ciao. Ciao Federico, buona domenica. Eccomi qua, mi senti? Sì. Ci siamo. Se io ti sei adesso, io ti sento, però non so se tu senti me, spero di sì. Allora senti, io il collegamento, io ti sento alle cuffie della radio, quindi è un po' problematico per me. Va bene, ok. Non ti sento direttamente al telefono, ho messo la cuffietta e quindi parlerò con un po' di ritardo, diciamo. Allora, non so se hai riconosciuto la prima canzone. Ed era sì, It's My Life dei Tok Tok. Sì, cosa vuoi fare? Altro io un'idea indizio? Ce l'ho e dico ecco, il diktat sì. Di Beppe Grillo sul non partecipare a talk show politici rivolto agli esponenti del suo movimento. Grazie Federico, buona domenica, ciao. Grazie. Enrico da Milano. Sì, buongiorno, mi sentite? Ciao, sì, adesso spero che tutti sentano, ovviamente. Ciao Enrico. Anch'io. Qui in Houston abbiamo un problema, dimmi Enrico, vai. Sì, va bene, io non lo so. Mi è venuto in mente le ultime dichiarazioni che ha fatto la Nicole Minetti. Non so puoi se... scegliere anche un secondo indizio, o questa è la tua risposta per i 1.000 euro? Ma sì, è la mia risposta questa qui, vai. Grazie Enrico, per te potrebbero essere 1.000 euro come per Federico, ammesso che una delle due risposte sia giusta, ma lo scopriremo al 24esimo minuto. Grazie Enrico. Va bene, ciao, grazie. Ciao, buona domenica. Patrizia da Catania. Ciao a tutti. Ciao Patrizia. Io avrei pensato a Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Anche tu niente altro indizio? No. Come mai Zuckerberg, per qualche ragione particolare? Ma no, perché era previsto il suo ingresso in borsa, sì. È presentato in felpa. Grazie Patrizia. Okay. Grazie, anche per te potrebbero essere 1.000 euro. 800 24 00 24, per ora abbiamo ancora un solo indizio, siamo ancora a 1.000 euro per Manuela da Torino. Manuela, ciao. Ciao Manuela, buongiorno. Buongiorno. Ma io un'idea ce l'avrei, però perché no, facciamo un secondo indizio. Ecco, sai, forse andiamo a 500 euro, però dici magari qualche indicazione in più potrei averla. Un mistero in 24 minuti. Secondo indizio del nostro mistero in 24 minuti, c'è Manuela da Torino. Manuela, non so se li hai riconosciuti, a me mancano molto perché da tanto che non producono dischi, sono in Ma Bianco con la voce di Beja. Allora, questa era Whose Side Are You On, Matt Bianco, e la traduzione è Da quale parte stai, per dirla in italiano, questa traduzione del titolo. Manuela, siamo a 500 euro. Ma io proverei con l'idea che avevo, insomma, proviamo ad andare con quella e la concessione del matrimonio tra persone dello stesso sesso in America. C'è Obama che ha fatto le sue dichiarazioni, quindi Obama, questo vuoi sì, dire? Sì, dall'idea di dare il via. Adesso hanno fatto anche il merchandising che riguarda quell'argomentazione, quella dichiarazione, per raccogliere fondi, perché sai che lì si fa di tutto per raccogliere fondi. Grazie Manuela, buona giornata, buona domenica. Ciao, complimenti, buona domenica, buona festa alle mamme a tutte quante. Certo, grazie. Sarebbero 500 gli euro per Manuela, ammesso che quella fosse la risposta corretta. Giuseppe da Monza e Brianza, ciao Giuseppe. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Siamo a 500 euro e due indizi scelti. Cosa vuoi fare? Ci servirebbe un'altra mezzodozzina di indizi, guarda, dico la verità. Non ho capito, scusami. Ci servirebbero altri 6-7 indizi. Vogliamo provare con un terzo indizio, allora? Sì, ci vuole, con un terzo indizio. Allora scendiamo a 300 euro, ecco il terzo indizio. Don't go. eccolo qui, questo è il terzo indizio. Giuseppe, l'avevamo così già usato la settimana scorsa nella versione di Fiorello, la traduzione che lui aveva fatto poi era sì o no, e invece in questo caso il titolo è Please Don't Go, cioè per favore non andare via. Erano le Casey and the Sunshine Band, questa è la versione originale della canzone. Allora, questo era il terzo indizio, per favore non andare via. Perplesso, provo comunque. Il principe Carlo che legge le previsioni del tempo a BBC. Vedi, è perché ha le paraboliche per poter ricevere tutte le informazioni. Grazie Giuseppe, ciao, buona giornata. Sarebbero 300 euro per Giuseppe. Carla dalla provincia di Vicenza. Carla. Sì, ciao, senti, buona domenica. Non mi dicono niente. Comunque come non ti dicono niente? Sono fatti perché ti dicano qualcosa. Sì, è brutto. Con il Guinness dei primati che un surfista ha superato un'onda alta come 8 piani di un palazzo. E diciamo che gli indizi che abbiamo fatto sentire fino adesso non c'entrano niente con questa notizia, giusto? Ecco, quindi credo che proprio non sia giusta questa risposta, vero? Esatto. Ecco, infatti non è giusta. Grazie Carlo. Grazie, ciao. Ciao, buona domenica. Massimo da Parma. Ciao, buongiorno. Ciao Massimo, buongiorno a te. Allora, abbiamo 300 euro in questo momento. Che cosa vuoi fare? Altri indizi se vuoi, altrimenti dai la tua risposta. Cosa fai? Io provo a dare la risposta. Che allora già... aspetta un attimo, fermati lì e sentiamo i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Allora erano i Tok Tok di It's My Life, cioè La Mia Vita, e poi Ma Bianco di What Side Are You On, ovvero Da Quale Parte Stai, e poi Please Don't Go dei Casey and the Sunshine Band, traduzione Per Favore Non Andare. E questi sono i tre indizi, Massimo, la tua risposta? Fatto, la risposta è già stata data in precedenza, però per me è Nicole Minetti. E siccome hanno detto, allora Enrico aveva detto le dichiarazioni di Nicole Minetti, giusto? E invece sì, tu dici il personaggio, va bene, c'è proprio differenza, lei, perché una è la notizia e l'altro è il personaggio, certo, sì. Potrebbero essere 300 euro per te, grazie Massimo. Grazie a te, ciao. Buona domenica. Cristiano da Asti. Pronto? Ciao Cristiano, buona domenica. Ciao, altrettanto, grazie. Allora Cristiano, che cosa vuoi fare? Io volevo dare la risposta. Anche tu? Finora mi sembra che gli indizi siano... gli hanno ragione la mia risposta, spero di non sbagliare. Vai! Allora, io ho letto una notizia sul venerdì di Repubblica di uno, un ragazzo, purtroppo non mi ricordo il nome, però è stato abbandonato dalla moglie e lui ha deciso di dare una svolta alla sua vita vendendo su eBay tutti i suoi averi e poi... decidendo di togliersi delle soddisfazioni, si è dato degli scopi nella vita, esattamente 100 scopi, e ne ha già spuntati 93, tra i quali pilotare un aereo e cose del genere. Vedi quindi cosa significa, a volte sono la vita in un momento così drammatico può anche cambiare in meglio. Tra l'altro non è la prima volta che succede una cosa di questo genere. Cristiano, non posso dire ovviamente nulla, sarebbero 300 euro per te, ma tra pochissimo lo scopriremo. Credo che manchi un minuto, l'ultima telefonata. Lucio da Torino. Buongiorno, Lucio. Ciao. Ciao Lucio, buongiorno a te. Si può avere ancora un indizio? Domanda. Sì, abbiamo ancora un indizio per un minuto. No, non ce l'abbiamo. Non c'è più tempo. Allora facciamo così, Lucio, perché bisogna essere corretti. Allora, non dare una risposta. Tu è come se non avessi partecipato, perché avresti avuto diritto ad ascoltare l'indizio, solo che il tempo non ce lo permette e io non posso fartelo ascoltare. Quindi Luciano, puoi partecipare anche la settimana prossima se vuoi, ok? Grazie, ciao Luciano. Bene, ciao, ciao. Ciao Lucio, anzi Lucio, ma sai perché ho detto questo a Lucio? Perché abbiamo il vincitore. Ci sono anche degli applausi che arrivano direttamente dal pubblico che c'è al Salone del Libro di Torino. Federico, eccoci. Eccoci qua, non ti sento bene. Ecco, beh, certo. Anche molto volentieri. Esatto, infatti, perché ti porti a casa i 1000 euro da spendere su librerializzoli.it, 1000 euro per te, perché la risposta giusta era proprio questa. Il diktat di Beppe Grillo, che è stato dato ai suoi, non andate ai talk show. Quindi il primo indizio non è il talk talk, appunto per talk show. Usai Dario On, da quale parte stai? Perché lui ha detto che chiunque si fosse presentato avrebbe preso una posizione e poi please don't go, perché, esatto, perché non andare. Grazie, ciao, 1000 euro per grazie te, grazie Giorgio De Luca, ciao. A Gian Gabriel Lombardo, Carmelo Lauricella, Pietro Lacorte e Filippo Oreggi, che hanno partecipato tra chi in regia e chi in redazione per la realizzazione di questo programma. Domenica prossima, ciao da Stefano Gallarini.